Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Energia verde per l'industria e i servizi, Forum a Trieste, la regione cuore delle ricerche con il progetto della Valle dell'Idrogeno. Territorio fragile, a Forgaria nel Friuli ancora ben visibili le conseguenze del maltempo, una trentina i punti sotto osservazione. Tra Caneva e Polcenigo e anche in Cansiglio, riprese anche in Friuli Venezia Giulia le ricerche dei giovani veneti scomparsi da sabato. Traffico di stupefacenti, quasi 2 quintali di marijuana sequestrati al casello di Ugovizza dalla Guardia di Finanza di Udine. Associazioni sportive alle prese con la riforma dello sport, già attivo il numero informativo per quelle di Trieste e Gorizia. Il sigillo della città di Udine ad Andrea Centazzo, musicista, compositore e artista multimediale, vive da decenni negli Stati Uniti. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura il tema della sostenibilità energetica. A Trieste si sta parlando di idrogeno verde come fonte di energia per alimentare l'industria del futuro e i servizi collettivi. Tanti portatori di interesse presenti al forum internazionale, da Confindustria agli enti di ricerca alle imprese. Trieste e il Friuli Venezia Giulia si affermano come capofila a livello mondiale nella ricerca e negli investimenti sull'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica pulita. A sancire questo ruolo, un convegno che si è tenuto nella sede della regione organizzato dall'UNIDO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, insieme al Ministero dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti. Lo Stato affacciato sul Golfo Persico, infatti, già da tempo ha avviato contatti con le istituzioni scientifiche del territorio triestino per scambio di conoscenze e tecnologie e per futuri investimenti nella Valle dell'Idrogeno del Nord Adriatico, quel progetto transfrontaliero sostenuto dalla regione e da Slovenia e Croazia per muovere a idrogeno gran parte delle attività economiche della macroarea, dai trasporti all'industria pesante agli impianti di riscaldamento delle case, progetto che ha avuto il via ufficiale a Porto Rose alla fine di settembre. L'interesse degli Emirati, che hanno avviato una strategia per la transizione energetica ambiziosa, è reale, a dimostrarlo i tanti interventi dei ministri emiratini in videoconferenza al summit di Trieste. Oltre a loro erano presenti imprese ed enti di ricerca del territorio, tra cui l'Università di Trieste, Confindustria, l'autorità portuale dell'Adriatico orientale, Area Science Park e aziende come Electrolux, Danieli, Bofrost. Ognuno ha fatto il punto dei propri progetti di investimento sull'idrogeno e su come pensa di affrontare la crisi climatica nel settore manifatturiero. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Smottamenti, cedimenti, frane, una trentina i punti sotto osservazione nel territorio di Forgaria nel Friuli, uno dei più colpiti dalla recente ondata di maltempo. Dopo i disastri causati dall'evento atmosferico del 2 novembre a Forgaria nel Friuli, sono una trentina le frane sul territorio comunale. Di queste frane smottamente 6 o 7 le più critiche, tanto da aver costretto il sindaco a chiudere la viabilità. Nei giorni scorsi il primo cittadino con i tecnici e un geologo della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo sull'area per capire l'entità e la gravità delle frane. Interdetta la circolazione verso Cornino, consentita solo verso Forgaria ai residenti di una borgata. Sulla strada posizionate dei massi per tentare di frenare lo scivolamento del terreno, ma sulla SP41 sono ancora evidenti i danni causati dalla furia del maltempo. Tronchi e massi a bordo strada e soprattutto il pericolo di caduta di alcuni alberi che il maltempo ha appoggiato ad altri. Disagi anche per i residenti della frazione di Via Benier, dove una nuova ondata di maltempo potrebbe isolarli. Bulgaria nel Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono riprese questa mattina anche in Friuli Venezia Giulia le ricerche di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera, dopo essere stata vista per l'ultima volta in provincia di Padova in compagnia dell'ex fidanzato, anche lui irreperibile. I carabinieri stanno concentrando le verifiche, in particolare nella zona di confine con il Veneto. Domenica, nella provincia di Pordenone, i rilevatori elettronici di targa avevano registrato registrato il passaggio dell'utilitaria del Giovane. L'area più battuta è quella della Pedemontana, tra Caneva e Polcenigo. Si cerca anche nella zona della foresta del Cansiglio, a cavallo tra le due regioni. Una delle ipotesi è che il ragazzo appassionato di montagna potrebbe essersi diretto proprio verso quelle aree. Ancora cronaca con un ingente sequestro di droga al confine con l'Austria. Oltre 195 kg di marijuana sono stati scoperti e sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Udine. Il carico di droga era a bordo di un furgone proveniente dall'est Europa ed era destinato allo smercio sul territorio italiano. L'operazione è avvenuta giorni fa, nel cuore della notte, al casello autostradale di Ugovizza, nel comune di Malborghetto Valbruna. Ad effettuarlo le fiamme gialle della compagnia di Tarvisio, mentre controllavano un veicolo commerciale con targa polacca diretto in centro Italia. Il carico di stupefacente era stato imbustato in 176 confezioni sottovuoto per evitare odori individuabili dai cani antidroga e trasportato in colli anonimi. La marijuana sequestrata, se rivenduta nel territorio nazionale, avrebbe potuto fruttare fino a 2 milioni di euro. L'autista, un cittadino polacco di 53 anni, è stato arrestato e poi rimesso in libertà per l'assenza di specifiche esigenze per la custodia in carcere, essendo incensurato. I militari hanno ricostruito il viaggio della droga, inviata dalla Svizzera alla Repubblica Ceca e da lì rispedita in direzione Italia. Sono in corso ulteriori indagini per ricostruire la rete del traffico e i suoi possibili destinatari. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. A circa 4 mesi dall'uccisione di Benita Gasparini, assassinata a coltellate nella propria abitazione di Pantianico di Mereto di Tomba lo scorso 19 luglio, dopodomani, giovedì, è in programma un nuovo sopralluogo del reparto investigazioni scientifiche di Parma, il RIS, che procederà con un accertamento tecnico non ripetibile su cui c'è il massimo riserbo. Tra gli obiettivi di questa nuova sessione di indagini, RIS erano già stati in Friuli subito dopo il crimine, sequestrando e analizzando una ventina di reperti, c'è quello di estrapolare il DNA ed eventuali impronte dell'assassino. Anche i vigili del fuoco di Latisana, impegnati nella notte a Concordia Sagittaria in provincia di Venezia per controllare un incendio in cui 7 persone sono rimaste lievemente intossicate, 5 erano bambini. Possibile causa dell'incendio è il cortocircuito di un elettrodomestico che ha preso fuoco. Voltiamo pagina. La riforma dello sport sta impegnando 2.700 società sportive dilettantistiche in regione con adempimenti importanti. La regione, assieme al CONI, ha attivato gli sportelli di assistenza fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche. Ieri la presentazione per le società di Trieste e Gorizia. Alle 9 di questa mattina è stato attivato un numero telefonico dedicato che risponde allo 040 899 0913. Giovedì la presentazione per le società di Udine e Pordenone. Le tribune della palestra di Ervatti erano piene, circa 200 i dirigenti delle ASD triestine e isontine pronti ad ascoltare il presidente del CONI Brandolin, che ha spiegato come poter accedere gratuitamente agli sportelli di assistenza fiscale istituiti dal CONI assieme alla regione Friuli Venezia Giulia, istituzione che supporta questa attività di consulenza in un momento importante per le associazioni sportive con 300.000 euro. È un primo passo che potremo anche ricalibrare, fa intendere il vicepresidente e assessore allo sport Mario Anzil, specificando che un modo anche per dimostrare gratitudine, oltre che vicinanza, a quanti si impegnano nella promozione delle attività sportive in regione. Gli sportelli, 10 in tutta la regione, oltre che nelle sedi CONI dei 4 capoluoghi, saranno dislocati anche ad Amaro, Lignano, Palmanova e Magnago. Vi si accederà soltanto previo appuntamento, indicando i temi della riforma dello sport che si vogliono approfondire, da quelli fiscali a quelli statutari a quelli contrattuali, in modo che i professionisti, avvocati sportivi, consulenti del lavoro e commercialisti specializzati nella materia sportiva potranno dare risposte chiare in tempi contenuti. Per Trieste e Gorizia è attivo da questa mattina il numero che accoglie le domande allo 040 899 0913. 1-3, dalle 9 alle 13. I numeri per gli sportelli di Udine e Pordenone verranno forniti nell'incontro di giovedì all'auditorium della Regione a Udine alle 17. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora diamo uno sguardo al meteo. Il cielo variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 13 gradi, Udine 12 gradi, Gorizia 11 gradi e 5 decimi, Pordenone 10 gradi. A Tarvisio 10 gradi, a Tolmezzo 8, a Forni di Sopra 7 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 4 gradi, a Sappada 2 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 8 gradi, sul Monte Zoncolan 5 gradi e 5 decimi, a Grado 11 gradi, a Lignano 9 gradi e 5 decimi. Ora le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Per le prossime ore cielo variabile a ovest e sui monti, nuvoloso o forse anche coperto sulle zone orientali, dove non è esclusa qualche piovigine. Possibili locali nebbie notturne in pianura e nelle valli. In tarda serata e nella notte probabili deboli piogge sparse. A Pordenone, ora dove questa mattina è stato sottoscritto il documento di intenti per il fiume e per il Noncello. Sentiamo che cosa prevede. È stato sottoscritto in municipio a Pordenone il documento di intenti per il contratto di fiume Noncello, tappa di un percorso partecipato iniziato nel 2022 che guarda al 2025. Unisce 27 attori coinvolti a partire dai comuni di Pordenone, Cordenons e Porcia. Termina oggi dunque la fase preparatoria e inizia quella operativa. Tra gli obiettivi, tutela e difesa idraulica del fiume e la sua valorizzazione anche in chiave turistica. L'assessore all'ambiente del comune di Pordenone Mattia Tirelli. Tre sono gli obiettivi: la tutela del paesaggio e dell'habitat naturale e il monitoraggio della qualità dell'acqua, la promozione attraverso la nostra rete museale e la rete sportiva, proprio poi anche per candidarci a Pordenone Capitale della Cultura, e infine sicuramente anche la sicurezza e non solo la sicurezza idraulica, ma anche la manutenzione del nostro fiume, sia ordinaria che straordinaria. L'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scoccimarro. Interveniamo a lungo termine, però abbiamo visto anche nel breve, in questa grave emergenza maltempo, che comunque il territorio è tenuto molto bene. Non basta, perché in certi casi può essere anche più devastante, quindi dobbiamo attrezzarci per questo. Adesso andiamo anche a fare questo tipo di opere, però è importante che oggi si lavori tutti insieme, e lo stiamo facendo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo adesso di diabete. 100.000 persone in Friuli Venezia Giulia soffrono di diabete, ogni due persone diagnosticate, poi ce n'è una terza che non sa di averlo. E di diabete, nella giornata mondiale dedicata a questa malattia cronica, abbiamo parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Negli Stati Uniti, dove si sa che lo stile di vita sano non è proprio di casa, nel 2030 una persona su 9 sarà affetta dal diabete. E questo perché, oltre alla familiarità, sono il sovrappeso e l'obesità, la scorretta alimentazione, la sedentarietà e il consumo dannoso di alcol e fumo le cause che portano allo sviluppo di questa malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue. Nel mondo c'è più di 500.000 di persone che hanno questa malattia. In Italia siamo intorno a 4 milioni e mezzo, e nella nostra regione sono circa 100.000 le persone che hanno il diabete. Un aspetto da considerare quando parliamo di numeri, che per ogni due persone che sanno di avere il diabete ce n'è almeno una terza che il diabete ce l'ha ma non sa di averlo, e quindi questi numeri sono ancora molto più grandi. Il diabete di tipo 2 è asintomatico e viene scoperto casualmente dopo le analisi del sangue, oppure, nel 18% dei casi, dopo una complicanza come l'infarto o l'ictus o semplicemente problemi alla vista. Questo è il motivo per cui tutte le persone che hanno più di 45 anni, hanno una familiarità, sono su di peso, sono sedentari, dovrebbero effettuare almeno una volta l'anno un controllo della glicemia e dell'emoglobina glicata attraverso gli esami del sangue. Il diabete di tipo 1, che è quello che interessa generalmente la popolazione più giovane, il diabete di tipo 1 è sintomatico, quindi quando insorge ce ne accorgiamo subito, e si caratterizza per il fatto che la persona tende a urinare molto di più, tende ad avere molto più sete e tende a calare di peso. Questi sono i tre segni caratteristici del diabete di tipo 1. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Seconda edizione del Fake News Festival, in programma a Udine dal 14 al 19 novembre. Organizzato da un gruppo di giovani professionisti friulani dell'associazione Prisma APS, prevede 16 appuntamenti con il pubblico, tra cui due incontri per le scuole, Un evento rivolto a universitari e imprese e 5 accreditati per la formazione continua dei professionisti, oltre a un momento sul ruolo dell'educazione permanente nella lotta alla fake news. Il via con Big Data, rischi e opportunità alle 18 a Udine, Torre di Santa Maria. Ospiti Marco Sartor, Giovanna Culotte, Daniela Castiglione, Matteo Zanirati, Paolo Sacco. Al curatore Gabriele Franco abbiamo chiesto, come si sente spesso dire, che c'è di male a condividere fake news. Il male principale è quello che potremmo fare a noi stessi nel momento in cui, credendo o non acquisendo le competenze per distinguere ciò che è vero e ciò che è falso, miniamo la nostra stessa partecipazione al processo democratico. Una notizia falsa, una notizia vera può definire ciò in cui crediamo a livello politico, economico, sociale, può definire che cosa mangiare e cosa non mangiare, può definire qual è la nostra posizione su temi attuali come i femminicidi o lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il pericolo quindi è quello di rimanere indietro e con questo festival noi vogliamo fare tutti insieme un passo in avanti. Quali sono le persone più a rischio di essere vittima di fake news e come ci si difende? Con questo festival ci siamo fatti subito questa domanda e la risposta è stata: il tema disinformativo riguarda tutti. Pertanto andiamo a fare degli eventi per le scuole elementari e per le superiori, per le medie, i più giovani, i più toccati forse dal fiume in piena di informazioni che passa sui social, ma anche gli adulti, costantemente alle prese con decisioni fondamentali prese nella propria vita personale o professionale. Ma la formazione, l'istruzione non deve mai fermarsi, per questo faremo anche eventi dedicati all'educazione permanente, proprio per dire come l'importanza di affrontare il tema informativo e disinformativo non deve fermarsi mai, perché anche i più adulti sono al centro del problema. Quindi non è solo un problema di età e neanche di titoli di studio? Assolutamente no, è un problema che riguarda tutti, semplicemente per essere destinatari delle informazioni, semplicemente per utilizzare i social network, semplicemente per informarci, e dunque tutti abbiamo il compito e potremmo dire la responsabilità di acquisire delle competenze per orientarci nel marasma informativo che contraddistingue questo secolo. Il sigillo della città di Udine ad Andrea Centazzo, musicista, compositore e artista multimediale. La cerimonia poco fa in comune a Udine con il sindaco Alberto Felice De Toni e l'assessore alla cultura Federico Pirone. Venerdì sera al Visionario di Udine alle 19.30 Centazzo porterà l'evento multimediale Anime Mundi, focalizzato sul cambiamento climatico. Nato a Udine nel 1948, Andrea Centazzo è da 50 anni una figura chiave dell'arte contemporanea. Dopo aver sperimentato con la musica improvvisata e il free jazz, è diventato produttore e ha fondato un'etichetta discografica. Negli anni 80 accoglie la novità dell'immagine video, realizzando opere, sinfonie e composizioni multimediali che hanno fatto la storia. La sua vita si svolge soprattutto negli Stati Uniti, con sporadiche apparizioni in Italia. La sua ultima apparizione live a Udine risale al 2018, prima della pandemia. Ancora alcuni appuntamenti: integrale delle sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, recital pianistico di Letizia Michelon a Trieste, Teatro Miela alle 18. La pianista veneziana terrà una breve conferenza introduttiva dal titolo Della gioia e dell'amore, con immagini messe a disposizione dalla Biblioteca Beethoveniana di Muggia. La stagione artistica del Teatro Comunale di Cormons inizia oggi alle 21, concentra una volta, concerto spettacolo, che vuole essere un tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana. Sul palco il trio vocale composto da Stefano Fresi, Toni Fornari e Emanuela Fresi. La Società Alpina delle Alpi Giulie di Trieste ha compiuto quest'estate una spedizione speleologica in un'area forestale protetta nel nord del Paraguay, lungo il fiume omonimo che segna il confine con il Brasile. Spedizione di cui parleranno giovedì sera nella sede di Trieste. Ma il capo della spedizione ci ha anticipato i punti salienti della straordinaria avventura. Hanno esplorato 5 grotte, cercato nuove cavità lungo il territorio ed effettuato ricognizioni, stilando schede tecniche e il bilancio della missione in Paraguay, nel cuore dell'America del Sud, compiuto dagli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Buegan nelle prime settimane di settembre. Un viaggio di studio in un luogo fuori dalle rotte abituali, nato quasi per caso dalla conversazione con un amico che aveva sposato una donna del posto e che aveva visitato alcune grotte definite dai locali monumenti naturali. Il progetto si è concentrato nel nord del paese, in un'area forestale protetta attraversata dal fiume Paraguay. L'obiettivo delle istituzioni è incrementare il turismo dell'area, ma per i ricercatori c'è anche altro. La spedizione è stata concepite principalmente come un'opportunità per sostenere il tema della preservazione dell'ambiente, della biodiversità. Quello che ci ha veramente attirato è stato proprio l'idea dell'istituzione di un parco naturale, quindi una zona protetta per la preservazione della biodiversità, no, e dell'ambiente in una zona molto degradata da un punto di vista ambientale, perché sfruttatissima per l'estrazione del materiale necessario alla produzione del cemento e anche del legname necessario per la produzione della calce. Proseguiamo con alcuni appuntamenti. Nella chiesa di San Martino a Visinale dell'Iudrio, presentazione del libro Il Cammino di San Martino sulle vie di Aquileia di Marino del Piccolo alle 18:30. Neurobiologia della musica, conferenza di Piero Paolo Battaglini nell'ambito del programma annuale delle manifestazioni di divulgazione umanistica, nella sala conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste alle 17. Inflazione e tassi di interesse dal punto di vista dell'investitore saranno al centro del nuovo incontro del ciclo di appuntamenti l'ABC dell'educazione finanziaria, organizzati da Pordenone Pensa e Università di Udine. A intervenire a Pordenone alle 19 nella sala Teresina Degan della Biblioteca Civica sarà Stefano Miani, docente di economia degli intermediari finanziari all'Ateneo Friulano. Alla Libreria Friuli di Udine l'evento Tina Modotti Verità e Leggenda con Christiane Barkhausen, biografa che ha fondato un archivio di documenti che ha base in Molise e condivide un progetto tra Spagna e Italia per la memoria di Tina Modotti, e la coach formatrice Elisabetta Bignami alle 18. Il libro Le signorine in cuffia di Barbara Battistelli sarà presentato alle 18 al Centro Commerciale Il Giulia a Trieste. All'ospitale di San Giovanni a San Tommaso di Maiano, presentazione di Ida Otto Berta, un'autobiografia di Patrizia Iob. Dialogherà con l'autrice Gianluca Makovec alle 20:30. Ed era questo l'ultimo appuntamento per questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. I prossimi appuntamenti con l'informazione, il telegiornale alle 14 sul terzo canale televisivo. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15. In regia Mauro Cumin e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.